Cucaria, 10. CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno? Attento Natalino, Alfa 1, ci sei in ascolto? Natali, tu sei? Avanti, avanti la portante che è. Avanti, avanti, avanti. La portante arriva, ma la radio non si sente. Se parli forse si sente. Se parli però, se hai la lingua. No, no, sì, peggio di un mutto, non si sente niente. E beh, allora ti fai sentire, sì o no? Adesso mi senti? Adesso sì, adesso ti sento, ma poc'anzi era completamente zero la radio. Caspita, può essere che si è scaricata la batteria in quel microfono. E può darti anche, è possibile, ma non è che te l'abbia a zero invece il volume del microfono. Ciao Claudio, come va? Ciao Giulio, è molto caldo qua, molto molto caldo. Stavo lavorando fino a poco fa, verso il Ticino di là. Di là ce n'è ancora più di qua. Lo so, purtroppo è così. Ecco cosa ci vuoi fare, qui lo stesso, non si resiste, è troppo caldo. Troppo caldo, si sta meglio dentro casa, con le finestre chiuse anche, perché se apri le finestre tutto caldo entra dentro. Infatti. Dimmi, in questo passaggio si è migliorato. Sì, la radio va bene, adesso va benissimo la radio. Segnale 9 più 5, buono, dunque non c'è problema. Adesso la radio è bella, chiara, pulita e anche forte. Adesso era già un po' che non accendevo, ho provato a accendere un po', tanto per far caricare i condensatori, se no si svaniscono, è un peccato. Infatti è meglio accendere ogni tanto almeno, ma io sinceramente l'accendo tutti i giorni, anche se magari non sto parlando, perché tanto non c'è nessuno, non c'è mai nessuno con chi parlo, col muro. E allora accendo anche 2 ore, sta acceso, se io voglio vado magari da un'altra parte, al computer ad esempio, alla televisione, e dunque lo faccio scaldare, quello è importante. È un periodo che sono molto indaffarato, un po' per il lavoro, un po' per altro, un po' sono occupato con i nipoti. D'inverno magari è diverso, ma adesso sono un po' occupato. Ecco, registrato, ecco, ciao Roberto. Sì, beh certo che sì, si sa, quando ci sono problemi di famiglia da assolvere, sicuramente sono molto, ma molto più importanti del baracchino, già non credo, ci mancherebbe altro. Facciamo entrare Roberto, avanti Roberto, buonasera, Giulio e Claudio di Porto Torres. Sì, ciao Giulio, ben sentito, infatti non dicevo l'amico che era, non l'avevo riconosciuto, ciao a te Claudio, avanti per i saluti. Ciao Roberto, sto entrando poco ultimamente perché sono un po' indaffarato, ma già ci siamo sentiti altre volte, ti riconosco dalla modulazione al volo. Abbiamo la stessa radio anche poi. Vabbè, avanti Giulio. Ok, beh certo, certo che sì. No, e poi la voce di Roberto riconoscibilissima, per cui non c'è problema. Vabbè, tu te l'hai fatta su stampo la tua voce, dunque nessuno alla tua se la somiglia. c'è stato un becco, avanti il becco. Ciao amico, ben sentito, ti tiro fuori, sei Santiago 8, un po' difficoltoso perché c'ho il QRM alto, sei compagnia mia di Claudio da Porto Torres, gli faccio i complimenti a Claudio perché il segnale arriva molto forte, rispetto a prima lo sento più forte, 9-10 abbondante, Giulio non c'è niente da dire, è sempre fortissimo, ti rilancio prima a Giulio se ti ascoltate e poi a Claudio, avanti Giulio per Mirko. Sì, ok, io saluto Nico, ma mi dispiace, non l'ho sentito, per cui non so cosa dire. Io ti lancio subito per Claudio, avanti Claudio, non so se tu mi hai ascoltato Nico. No, negativo, appena un filo di voce in mezzo al QRM, mi dispiace. Comunque ritieniti super salutato Mirko. Magari in altre condizioni ci sentiremo meglio. Avanti Robert. Sì, ok, non so se li hai ascoltati, Mirko, li hai ascoltati a Claudio di Porto Torres e a Giulio, ti lancio il mic, avanti a te, ti sei un po' passato adesso di segnale, sei intorno all'8, però ogni tanto arrivano questi picchi di scarica, non so come mai. Ok, comunque vi ho ascoltato tutti e due, mi sta dicendo Mirko, sia te che Giulio, anche io ho un po' di difficoltà a tirarlo fuori. Una domanda a Claudio, hai fatto qualche modifica all'impianto perché sta arrivando molto molto forte? No, nessuna modifica, anzi dirò che c'ho le stazionarie a 1,5, non è proprio tarata bene l'antenna, dovrò buttarla giù e sistemarla un po'. Vabbè, 1,5 siamo ancora ai limiti di tolleranza, tollerabile. Comunque sei arrivato un po' più di 9,10 arrivi qua da me. Ok, di nuovo a te Giulio, era arrivato a 9,25, avanti a te Giulio. Ok, va bene lo stesso. No, io non lo sento per niente amico, la verità, non so nemmeno da dove sta trasmettendo, ma dove è Alghero per caso? Non lo so, perché io per Alghero non è che sono in una posizione, come sapete, non è ideale per me la posizione per Alghero. Dove sta trasmettendo questo Mirko? Sì, l'abbiamo sentito altre volte Giulio, da Alghero, adesso aspetta, lo rifaccio venire avanti, perché ha avuto un passaggio un po' più basso, si era passato il segnale, non so cosa ha fatto, avanti di nuovo Mirko, 6-8 abbondante, c'ho molto QRM perché ce l'ho a 7, un pochettino te lo porti appresso, ma l'antenna hai fatto qualche modifica o la devi fare? Perché mi avevi detto che dovevi fare qualche modifica, Mirko. Ah, hai messo la Game Master, diciamo rispetto all'altra volta forse leggermente meglio, ma è abbastanza alta, l'hai alzata abbastanza questa antenna. Scusa, non ho capito, ma l'hai già messa la Game Master o la devi mettere? No, sicuramente quando la metti va molto meglio, perché qua da Alghero arrivano 9, anche qualcuno più forte. Tu sei 8, un peluzzino un po' più di 8, però dovresti arrivare più forte, probabilmente sei una zona un po' disagiata. Scusate, monopolio, di nuovo a te Claudio. Ok. Fammi la staffetta, digli come sto arrivando Alghero, Robert. Mirko, l'hai sentito a Claudio, mi ha chiesto quanto sta arrivando di Santiago all'Alghero. Ti sei di nuovo abbassato Mirko, 6-7 adesso, non so cosa stai toccando, riesco appena appena a tirarti fuori, non ho capito quello che hai detto. Se vuoi ripetere o mettiti come di prima, sei sceso da 8 a 7. Sento scariche, tu, non è che dovevi anche temporare in zona, no? Sì, anche qua. Claudio, tu col 44 o col 14 stai uscendo? 44. E che antenna c'hai? A Mantova 1 di quelle vecchie. Abbiamo le stesse condizioni, idem e compattate. Vai tu Giulio. Ok, strano però che non mi senta, cioè che non sento amico l'Alghero con la Game Master, ha detto che è piazzato, perché io non ho la Game Master. Mirko, anch'io sto usando la Game Master, ma tu non arrivi proprio per niente di segnali. Tu pensa che ho anche poco QRM stasera, per cui ti avrei dovuto sentire bene. Non dico benissimo, ma bene ti avrei dovuto sicuramente sentire. Io sto usando la Game Master, evidentemente tu hai qualcos'altro che non va bene, che non è perfetto. Poi questo cambiamento di segnale qui da Roberto, la dice lunga, è la Suria. Avanti, o Claudio. Ok, comunque un passaggio prima mi è arrivato Santiago 2, ma appena un filo di voce in mezzo al QRM, l'ho sentito un pochettino. Guardarsi che magari non l'ha sollevata bene l'antenna o è in qualche punto che non è molto, molto consono, insomma. E vabbè, l'importante è provarci. Avanti Roberto. Aspetta, faccio rientrare il nuovo amico. Mico, ci sei ancora? Prova un po' a parlare. E altro un po' di più con l'antenna. Quello che mi meraviglia, cioè c'è dei passaggi di 8, adesso sei 8, poi poco fa sei calato di colpo a 7. Controlla che non c'è qualche rientro di coso, di radiofrequenza, le stazionarie alte, verificale bene. Ok, e Claudio, a te quando ti arrivo io invece a coso, a Porto Torre? E 9 abbondante. 9 abbondante, la radio non è perfetta. Va bene, ok. Giulio di 99 sta dicendo che c'è una GameMaster, però forse è un po' bassa, per quello che non riesce a uscire bene. Perché cacchio, dovrebbe uscire con la GameMaster? Non è lontanissimo, cioè io la chiedo, a me mi arrivano a bomba, dico tutti 9 i segnali, strano che lui arrivi 8. Riprendo io allora, sì, beh, certamente sì, ma è qualcosa infatti mi impedisce di arrivare, se no io non dico che non sento Alghero, ma di solito sento intorno ai Santiago 5, però riesco a parlarci tranquillamente, a me mi sentono lo stesso, più o meno con quell'intensità di segnale, ma lui proprio non arriva proprio, nonostante che oggi io il QRM ce l'ho abbastanza basso e oggi sono 3-4 il QRM, per cui l'avrei dovuto sentire anche bene, non so cosa dire, evidentemente qualcosina che non quadra, evidentemente Mirko, mi dispiace non poterti sentire direttamente. Va bene, dai, avanti Claudio. Eppure, però dobbiamo considerare che la propagazione è abbastanza chiusa adesso, è già un paio di giorni che è molto chiusa e QRM ce n'è quanto ne vogliamo, e quindi non è un momento favorevole per le lunghe distanze. Magari lui non ha messo l'antenna come si deve, e c'è così. Lo sento giusto, un filino di voce appena così. E vabbè, avanti Roberto. E invece facciamo confronto con Giulio, lui c'ha la Game Master in zona degli punti, diciamo, più o meno. Quando ti arriva rispetto a me, che io sono dall'altra parte della città? Io? No, Giulio, rispetto a me, che segnale gli dai rispetto a me? 9, anche lui mi arriva. Abbiamo più o meno lo stesso segnale, dai. Sì. Tu però sei più alto, tu sei 9-10 e oltre, vai. E boh, forse sarà la posizione, anche io dopo l'autore sono proprio dove c'è il faro. Non so se l'hai mai visto il faro di Porto Torre, lì è abbastanza in alto, poi l'antenna è piazzata su un palo di 6 metri, quindi è abbastanza su. No, ma voglio capire, siccome stiamo usando tutti e tre la stessa radio, noi due abbiamo la stessa antenna, perché anche io ho la Mantova 1, io però ti ricevo più forte e tu mi ricevi un po' più basso di quanto mi arrivi tu. Perché tu mi arrivi 9-10 abbondante, tu mi stai dando un controllo di 9, non so se che potenza stai utilizzando, se stai spingendo, questo non lo so, quanto stai uscendo? Ma all'incirca un 25-30 watt in positivo. Quindi in trasmissione dalla parte mia va meglio che dalla parte tua. Va bene, dai. Ok, Giulio, di nuovo il mic. Ok, diciamo che i segnali più o meno si equivalgono. Lui a me arriva a 9 più 5, ti puoi immaginare, da te arriva a 9 più 10, da me 9 più 5, va bene che io sono nella conca, già lo sai, ho tirato tante volte rispetto a Sassari in che posizione mi trovo, perché praticamente io sono in basso, per cui per Sassari l'ho sempre detto, da Porto Torres, da Ottava soprattutto, mi passano sopra, no, non c'è problema, proprio per effetto della vera conca che c'è qui ai punti, per cui 90 metri sono molti, 90 metri rispetto a Sassari come altezza di livello sul mare sono tanti, io ho 135 metri, Sassari 225, l'altezza l'hanno 400 metri, io Robè, è tirato il tutto, il motivo è quello, questa differenza di segnali. Avanti se ancora Claudio. Adesso sei uscito un po' meglio, Giulio. Eri 9-5 con i picchi positivi, picchi positivi. Roberto invece non è positivo, è più fisso, un segnale stabile, più fisso. Ok, ho capito Claudio. Sì, io lo stesso, ti segnalo con lo stesso valore di intensità, 9 più 5, la radio è ottima per stretta, che è quello che conta, poi dopo tutto, per cui non c'è problema. Sto andando io con il Mike Gain a 1,5 e senza processore. Io ho staccato il processore da un bel po' di tempo e lo sto usando sempre senza, proprio per non diciamo sforzare troppo il modulatore. Un attimo. E così, naturalmente se metto il processore devo abbassare il Mike Gain a 1, perché se lo strappo. Va bene così, avanti, va bene. Sono venduto il processore, se qualcuno se lo vuole comprare, buonasera a tutti. Proprio più 10 Claudio qua arriva, buonasera, vi saluto, ciao. Mica, come vai Antonio, il segnale, invece è Claudio, ciao Claudio, avanti Claudio. Ciao Claudio, ben sentito. Dobbiamo considerare però i microfoni. Io sto usando un palmare normale, il suo, quello aglio e olio proprio, aglio e olio. E tu lo vuoi? Adesso sto usando quello più grande, quello da tavolo, è il fratello grande di quello che sta usando tu. Anche a me arriva 9,10, appena un peluzzino più di 9,10 sta arrivando. No, arriva, però la cosa strana, pur avendo le stesse radio e la stessa antenna, io lo ricevo più forte di lui, e questa è una cosa un po' strana, utilizzando gli stessi apparecchi e le stesse antenne. Stranissimo, di nuovo a te Claudio di su, dalla parte alta. Non so intanto se la salutare con Claudio, c'è quel tempo che non ci sentivamo, c'è anche Giulio, io sono impegnatissimo, non sto entrando più, qualche volta vi ascolto, adesso ero di passaggio, ho sentito Claudio e poi ho sentito Giulio, a te ancora non ti avevo registrato. Comunque 9 più 10 qua arriva, quindi non è roba che abbiamo grande differenza noi, nonostante ci sia un piccolo dislivello, ma comunque ti posso garantire che ricevo molto bene da qua. Non so come arriva a Porto Torres, ma comunque Claudio qua arriva 9 più 10, proprio un pelino 9 più 10, più o meno è il segnale che c'era nell'altra casa, niente di che. Io invece sto andando col il fratello, no, 430, MC60, potenza circa 25 watt, 30 watt modulati. Ok, Claudio per Giulio, per i saluti, poi ascolto il passaggio di Claudio e vi lascio perché sto facendo cosa. Devo andare a innaffiare. Un abbraccio a tutti, vai Giulio. Ok, ciao Claudio, ben ascoltato dopo un bel po' di giorni, dai. Buon lavoro allora se devi innaffiare. Acqua fredda, dagli acqua fredda che ne hanno bisogno. Non sbagliare, non dagli acqua calda. Te immagini, vabbè, mettete a innaffiare con l'acqua calda. Vabbè, dai. Avanti Claudio, per salutare Claudio di Sassari. Ciao Claudio, ciao. Anch'io ero da un po' senza entrare. Ho acceso così per far andare un po' il condensatore, quella roba lì. Comunque qua mi stavi arrivando 9,5 con picchi positivi, la radio è quella di sempre, quindi no. Va ottimamente. Un saluto e buona innaffiata. Ciao, avanti Robert. Ciao a tutti, ciao, grazie dei controlli, vai Robert. Ciao Claudio, ci sentiamo pure per quella roba, se passi ci mettiamo ancora domani mattina, la stiamo organizzando per spostare quella roba. Ok, c'è anche Mirko di Alghero, vediamo un po' come l'ascolti tu Claudio, torre del controllo. Mirko, ci sei ancora? Ciao Mirko, Santiago 7 con picchi a 8, Radio Super 5, ciao Mirko, buonasera. C'è uno spagnolo che entra ogni tanto. Infatti la cazzo in gaddo. Posso, io ti dicevo Santiago 7 con picchi quasi a 8, però come ha detto Claudio c'è uno spagnolo che ti ha totalmente coperto, quindi insomma cerca di metterti un po' in carreggiata. Va bene, sì Claudio, ottimo, hai un ottimo segnale, io sono più alto di dove ero prima, però leggermente un po' più in una vallata, ma abbastanza aperto, e quindi ti ricevo, diciamo, più o meno mi sembra lo stesso segnale che avevo a Carboanzi in condominio. Qua in campagna arrivi molto molto bene, avete tutti gli ultimi segnali. Ok, ricambio per Giulio, grazie per avermi fatto entrare, un saluto a tutti, un abbraccio Claudio, ciao Robby, ci vediamo domani mattina noi, tanto io devo andare alle poste alle 8:30 che ho una cosettina da fare, se abbiamo 5 minuti facciamo quello che dobbiamo fare. E Claudio per Giulio, buona serata a tutti, ciao ciao. Ok, ciao di nuovo Claudio, salutoni, grazie per essere entrato a salutare, alle prossime, dai, faccio girare per l'ennesimo saluto, avanti ancora Claudio per salutare di nuovo Claudio. Ok, ciao Claudio, alle prossime, ci sentiamo. Quando capiterà che accendo ancora, speriamo che a risentire. Va bene, ne approfitto anch'io adesso perché ci sono i miei nipotini che mi stanno reclamando. Bisogna che vada. Un salutone a tutti, a Roberto, a Giulio e a Claudio se mi senti ancora. E ci risentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Ehi, riprendo io, ciao Claudio del Portottore, sempre piacere ascoltarti. Adesso che c'era Giulio e poi c'era messo Antonello Pomponio sopra, non sotto perché è arrivato talmente forte qua. Vai Giulio e poi vediamo se Antonello lo facciamo entrare, vai giù. Se c'è lo facciamo entrare subito, avanti Pomponio, ci sei? Ehi, buonasera, avevo appena acceso il baracchino perché come lo accendo immediatamente si mette in moto il Roger Bip. Salutoni a tutti comunque. Ok, ciao Antonio, salutoni anche a te. Bene, dai. Comunque, 9.5 mi arrivando, col baracchino stiamo uscendo. Avanti, vabbè. No, risposto un attimino al telefono, non ho sentito Antonello, cosa ha detto? Ho detto che in pratica quando accendo il baracchino io, in automatico ho capito, fate lo GB. Tutto lì. Infatti è talmente forte il segnale, hai scovaccato a Claudio fuori il controllo, lui arriva a 9.30, a Claudio tu sei 9.50, ho sentito questo bip, ho detto questo è Antonello, chi c'ha il segnale così forte è solo tuo, prima c'era Claudio, allora mi sei solo tu. Sì, vabbè, ti arriva bene anche Claudio, non è che vuoi benissimo, anzi qua arriva benissimo. Vediamo un attimino Mirko di Alghero, se c'è ancora così se lo ascolti anche tu Antonio. Mirko ci sei? Antonio l'ha sentito? Sì, a voi lo sento. Ciao Mirko, salutoni, segnale 9 qua, Radio 5. Carbonazzi da questa parte, alto. Sì, beh, se lo usi da 15-20 anni logico che ti dà problemi di potenziometri, che cominciano a sentire tutti questi rumori strani, come fanno i soliti. Basta che ringrazi un pochettino, è stata normale la radio. Figurati. Avanti, Roberto. Facciamo riprendere a Giulio, anzi facciamo una cosa, lasciamo 2 secondi di bianco se nel frattempo vuole entrare qualcuno, se no riprendi tu Giulio, 2 attimini di bianco, vai giù. Ok, sì, ma poc'anzi per un attimo, ma veramente per un istante sono riuscito a sentire a Mirko, va bene, evidentemente qualche cosa che deve rivedere. Io lo rilancio per Claudio, avanti Claudio di Porto Torres. Ha chiuso giù. Ha chiuso, io non ho avuto modo di salutarlo, vabbè se sta ascoltando lo saluto adesso, eventualmente fatemi sentire o Claudio, eventualmente, vabbè sì, aveva annunciato da molto che aveva un impegno con i nipotini, è giusto che sia così, certo, ci mancherebbe altro. Mirko, non so se mi stai ancora ascoltando, io per un istante ti ho sentito, ma poi sei sparito subito, ho sentito una parola e basta, che poi non era nemmeno molto chiara, Vediamo un po', io ti rilancio e vediamo un po' se riesci a farti ascoltare anche da me. Avanti Mirko, non sento. Sta parlando Giulio, dice il segnale è basso, però la modulazione è chiara la tua giudice. Mirko, solleva l'antenna e vedi che ti fa ascoltare da tutte le parti. L'antenna è fondamentale, puoi avere tanta potenza, ma se non riesci a irradiare è quello il guaio, cerca di sollevarla un pochettino e verifica che la posizione sia ideale dove l'hai messa. Io non so se abiti in condominio o se abiti in campagna o dove, non lo so, però se abiti in campagna magari se c'è qualche albero che ti disturba magari mettitela dall'altra parte, vedi un po', perché c'è l'Angelino, le stesse condizioni d'Alghero, come ha cambiato posizione è rinato. Vabbè, comunque prova a sollevare se c'è la possibilità di sollevarla e sicuramente migliori, almeno io ti ascolto, però qualcuno da qua in zona di Sassari c'ha difficoltà. senti, ti avanti Antonella. Ah, io già l'ascolto bene, ce l'ho rifatto anche, quindi è comprato lì. Faccio un attimo di bianco che stacco questo e attacco il 3009 per vedere, così lo faccio funzionare un pochettino. Ti arrivo subito. Eia, ok Giulio, vorrete riprendetela. Perché come hai merito giù? Hai tolto il processore, per quale motivo? Ah, così, ho visto che va bene lo stesso, perlomeno così mi hanno detto che va bene il radio come quando c'è il processore, però aumentando naturalmente mai che io a 1,5, anziché a 1,5, perché se ho metto il processore strappa a 1,5, mentre invece a 1 va benissimo. La radio dice che è uguale, poi non lo so, io non è che posso giudicare perché chi mi ascolta dovrebbe dirmelo. Ma mi hanno detto che va bene, allora ho pensato, ma perché usare il processore e sforzare troppo il modulatore dal momento che non ce n'è necessità? Avete considerato che così va bene ugualmente, allo stesso modo. Ed è per quello che ho deciso di fare così. 1,5 un mic gain e niente processore. Va bene lo stesso, va? Oh, non me ne sono neanche accorto, ci credi, come ti ho sentito gli altri giorni. Naturalmente come hai fatto Claudio, la differenza si è sentita. Claudio torre di controllo e faccia tutto. Perché quando entra lui faccia tutto. C'è una potenza di radio allucinante. Però ti ascolto perfettamente, non ho notato differenze rispetto a Claudio di giù di Porto Torres. Ok, vabbè, quello sì. Lo so, Claudio ha una radio fortissima. Come lui no, non c'è nessuno, non si può dire di no. Purtroppo è sempre stato così e sarà sempre così, per cui va benissimo. L'estate che mi sentano bene, chiaro, e anche che non sia una radio che ci debbano mettere l'orecchio sopra all'altoparlante della radio stessa per ascoltare. A me mi basta quello, Roberto. No, assolutamente no, te l'avrei detto, quando ci sono qualche problema te l'ho sempre detto. Tu c'hai 60, sta utilizzando naturalmente. Sì, è quello, è il suo originale, anche con l'altro. Anche con l'MB più 4 va bene lo stesso, non c'è problema. Però questo originale, anche per così evito lo stezzone, perché avevo fatto uno stezzone per abbinare l'MB più 4, ma mi si è considerato che questo è un microfono che vale tre volte tanto l'altro come costo, soprattutto perché non sfruttare questo e sfruttare l'altro non è il caso, insomma, ecco. L'altro ha una modulazione un pochino più corposa, ecco, un po' qualche basso in più, mentre invece io con questo so che ho dei toni alti, anche perché la mia voce naturale è così. No, assolutamente chiara. Come ti conosco in presenza, no? Intanto a me non piace tutti questi voci modificate, pompate, dico, la tua voce naturale. Io lo sai come sono fatto, ho sempre preferito una voce più chiara possibile e più conforme all'originale. Come ti diceva, l'originale, l'etichetta nera, l'originale, cos'era lì fuori, anche a me. Beh, è così, No, ma poi che motivo c'è? Quando uno non sente che magari è troppo lontano, si può anche rimediare, aumentando in qualche maniera, eccetera. Ma visto e considerato che qua in città e anche nella zona limitrofe a Sassari la modulazione arriva discreta, buona lo stesso, per cui non è proprio il caso di andare lì a fare modulazioni troppo alte. Va bene così, è apprezzabile, perlomeno nessuno si lamenta, tutti mi hanno detto che va bene, allora continuo a lasciarla così. Allora facciamo una prova, se Mirko c'è ancora andiamo in FM, se magari riesce a sentirti meglio. Mirko, puoi andare in FM? Allora un attimino in FM, vediamo se cambia qualcosa per Giulio. Ci siamo? Sì, io ci sono già e no, sono qua, schiaccio il tasto e basta, è fatta direttamente, anche perché adesso sono col canalizzato, no? Cioè con i canali memorizzati, mentre l'altro ce l'avevo in VFO, ma bastava schiacciare il tastino e passavo da una formalità all'altra. Sì, assolutamente, è abbastanza semplice fare quell'operazione. Comunque cambiano un po' le modulazioni, dalla M alla banda laterale non ho notata la differenza, non so se tu l'hai notata, io ti sto ascoltando l'altoparlante esterno, molto più forte, ce l'hai più piena in AM tu la modulazione. Sì, c'è una differenza, c'è, ma comunque non è che sia questa grandissima differenza, va bene lo stesso, non c'è problema. Io come ti arrivavo in banda laterale come segnale. come la M, superabili 9 più 20, uguale, il segnale non è cambiato niente, la modulazione rimane un pochettino più ricca di acuti, diciamo il tipo di modulazione, la banda laterale è un po' più ristretta, per cui è logico che la banda passante sia un pochettino la larghezza di banda. Scusami che il telefono adesso ti riprendo subito giù. Ok, vabbè. Sono rientrato giù. Ok, vabbè. Sì. Stavo dicendo, come modulazione uguale, no? Anche se io avrei dovuto fare una modifica di volume come coso, come Mike Lee, perché mi aveva consigliato Claudio, lui che conosce molto bene questo tipo di radio, mi aveva consigliato che quando vado in banda laterale mi metto la sì, addirittura, ti puoi immaginare, invece io l'ho tenuto sempre a 1,5, ma mi stavi dicendo che mi ascoltavi ugualmente bene, per cui quella prova non l'ho fatta, però era consigliabile, questo è quello che mi aveva detto tempo fa Claudio, di utilizzarlo a sì quando vado in banda laterale. Un attimo, scusa. Ok. Cacchio, la telefonata di un radiatorato, scusa, mi giù, ma se devi telefonare continua pure, Romeo, non c'è problema. No, era mio fratello, mi ha chiesto un'informazione, roba veloce, però ho chiuso con uno e mi ha durato 30 secondi. vabbè, succede, no? Succede anche quello, certamente sì. E ti stavo dicendo, tempo fa, facendo delle prove con Claudio, mi aveva detto che quando vado in banda laterale, siccome non straffa in banda laterale, aumentando il mic che è sì, a differenza di quando suono in AM che devo metterlo a 1 quando uso il processore, capito? Mentre invece adesso io lo sto usando a 1,5 ma senza il processore. Però infatti in AM lo devi usare senza processore e sollevare il mic gain, quello sì è normale. Appunto, è quello che mi aveva detto Claudio tempo fa, perché io prima, questo è tutto subito dopo che quando era arrivato, diciamo, dalla riparazione eccetera, no? Mi aveva consigliato che si dovrebbe utilizzare così, visto che lui è molto pratico, no, perché io sinceramente in banda laterale questo non lo uso mai, ma nemmeno in FM qualche volta, salvo qualche prova così come abbiamo fatto stasera, se no io uso sempre la M e basta, no, niente di più, non tanto niente, anche i collegamenti li faccio in genere, li faccio sempre in AM, non in FM, e tantomeno in banda laterale, qualche volta in banda laterale quando salgo sui canali un po' alti, intorno a canale 50, così, una cosa del genere. Sì, anche io infatti non ci vado quasi mai. In FM quando c'è preparazione che ci sono i tedeschi qualche volta, perché loro sono sempre in FM, se no 99% utilizzo la M, ma io non ci vado neanche nei canali alti, non è che mi interessa più di tanto. Se ritrovo nell'1,40 li ascolto, raramente proprio vado sopra i 40, 45, 55 dove ci sono i DX, non è una cosa che mi piace più di tanto, perché c'è sempre confusione, non si comprende nulla, sono uno sopra l'altro, invece se trovo qualcuno che parla al canale 11, 12, che c'è poco macello, ti dico. Sì, e beh anch'io, no, sul 45 anch'io vado solo ad ascoltare, quando mi diverto quando ci va Massimiliano, su 45 mi diverto, perché lui attacca e ribombarda alla grande, e alla prima chiamata che fa subito lo rispondo, nonostante tutti gli accavallamenti che ci sono, sai, lì muda uno sull'altro. No, ma con Massimiliano non si scherza, quando attacca lui, altro che se si fa sentire, e lo rispondono subito, al primo tentativo. Sì, a voglia, Massimiliano è molto conosciuto, penso che dalla zona della provincia sia uno dei più conosciuti, perché lui poi usa termini, diciamo, perché di lì usano anche altri linguaggi rispetto al nostro, tutto un vocabolario diverso. Se non dice il cognome non sembra neanche Massimiliano, cioè il cognome, il nominativo non sembra neanche lui, perché è tutto diverso parlando. Sì, perché si usa lì un'altra impostazione, cioè che modula sul canale 45, hanno tutta un'altra impostazione diversa, proprio la classica impostazione soprattutto dei camionisti eccetera, no? E dunque anche lui evidentemente si è adeguato a quel tipo di linguaggio, ma io devo essere sincero, quando c'è Massimiliano a 45, guarda, mi rimango all'ascolto tranquillo, non entro mai, perché ripeto non entro, ma mi diverto da morire veramente, guarda, mi fa divertire, perché nel modo come lui mi chiama, quello rispondono, altro che se, e poi conosce tutti quegli amici lì, non so per quale motivo, evidentemente perché ci parla sempre. Sì, già lo so cos'era, Gigino Vulcano, la stessa cosa. Sono quel gruppo di camionisti, operatori di macchine operatrici che parlano tra di loro, ma anche di gente di tutta l'Italia lo conoscono, sia lui che a Gigino. Molte volte dice salutatemi a Gigino, salutate a Bulldozer, li sento molte volte se per caso entra qualcuno. Sì, sì, sì, ma mi è capitato anche a me di sentire qualcuno mandare saluti anche per loro, certo. Appunto è quello che ti stavo dicendo, mi diverto veramente, quando c'è lui io mi metto in ascolto tranquillo e mi rilasso perché mi diverto veramente, guarda, non c'è problema, veramente, vabbè, comunque, meglio così, dai. No, io no, sul 45 non ci parlo quasi mai, difficilissimo, ma molto difficile. Io quando faccio i collegamenti li faccio sempre in altri canali, generalmente sui canali più bassi, ecco, tra il 10, il 20, questi canali così, dai, il 28 tante volte, sì, alle volte vado anche, ma rarissimamente in banda laterale, però allora intorno al canale 47, 48, 49, 50, tante volte anche canale 65, insomma in quei paraggi lì, ma non più di tanto, però non è che mi entusiasma molto, la verità. Vai Robert. Sì, lo so, ma poi lo sai perché non mi piace il 45, a parte c'è troppa gente che fa veda uno sopra l'altro e parlano da tutte le parti d'Italia, perché sono tutti con l'ecco, non se ne comprende nulla, per fare un passaggio devono stare 10 secondi per dire ciao come stai, ciao ciao ciao ciao, e ti senti che ecco, a me sono contrario, proprio non mi piace. Anch'io sono della stessa idea. Però a volte se non c'è nessuno magari posso trattenermi 5 minuti anche ascoltando lì, ma poi ritorno subito sui canali bassi, sempre sul 10 più o meno, raramente, qualche volta sul 23, ma raramente anche, no, anche lì non c'è più nessuno, come nel 10 non c'è pochissima gente anche sul 23, da quando è morto la buon'anima di Battisio, poveretto, anche sul 23 non sento più nessuno, qualche volta così c'è Gio Maria, ma contore, ma niente di più, non sento più nessuno, insomma. L'altro giorno, forse un paio di settimane fa, ho sentito Gio Maria, era tantissimo tempo che non lo sentivo, ma cacchio, Gio Maria, come te sono 72 più anziani. Sì, beh sì, sia di età che anche come anni di frequenza siamo i più anziani, lui è più anziano di me, sia di età che come anni di frequenza, non ci sono dubbi. Poi ci sono io, poi non so, poi dietro di me che c'è come età soprattutto, evidentemente così, sì, lui è un po' più grande di me anche, dai. Però sempre più giovane di tuo padre, un po' più giovane, un paio d'anni più giovane di tuo padre, però più grande di me di qualche anno. Io intendevo anziano di frequenza, non mi permetta di dire anziano, di non farmi giudicare, la persona è anziana, la sua è giovane, era riferito a anzianità di frequenza, infatti lui aveva detto io e Giulio siamo i più anziani in frequenza, poi di età non lo so, sicuramente non è un ragazzino, almeno dalla voce mi immagino non è un ragazzino, Gio Maria, se ti conosco di persona però più o meno so quanti anni hai, ma Gio Maria me lo immagino abbastanza grandicello. Sì, lui è qualche anno più di me, ma comunque anche di età di siamo lì, qualche anno più di me anche di età. Lui è oltre i 50, intorno, io penso che sia intorno ai 54-55 anni di frequenza, per cui sono tanti anni, il più anziano, al momento il più anziano in assoluto che c'è in frequenza, perlomeno nella 27, poi tra le altre frequenze questo non te lo so dire, però nella 27 è sicuramente il più anziano, parlando di Sassari, e poi vengo io. E penso anche Coso c'è molto, molto anziano di frequenza, moltissimo, ma siamo lì di Walter quando qualche volta entra anche lui, lo possiamo considerare il vecchietto della 27, nonostante che di età è molto più giovane di me, ma molto però. E lui è stato da ragazzino. E Coso, Emanuele, quello, come si chiama, Ponzio Pilato, era più grande di età di te? Sì, lui era più grande di me, di 5 anni, una cosa del genere, 4-5 anni, dai. Anni circa più o meno, come Gio Maria più o meno. Per cui anche lui era un vecchissimo CB, prima quando abitava in via Calalberto, abitava dove non so se c'è ancora la farmacia e lui abitava sopra, abitava, poi si era trasferito al monte, si era trasferito, ma anche lui era un vecchissimo TB, solo che parlava poco e niente, parlava allora, in quegli anni, ha incominciato a parlare un po' di più, per questa quando si era trasferito a Monte Rosello, ma comunque un'ultima persona, un signore, insomma, ecco, educatissimo proprio, veramente in gamba, una persona a modo, di tutto rispetto, Roberto. Sì, assolutamente, per quel poco che l'ho conosciuto, molto educato, sembrava un papa parlando, poi c'era quella voce tranquilla, bella da piacere. Chi c'era invece di quelli deceduti, più vecchi di te in frequenza? Beh, se dovessimo parlare, ad esempio Tore Alla Guardia era prima di me in frequenza e anche di età più grande di me, poi altri non è che me... c'era Mario Buonani, ma lo stesso Mario prima di me lo stesso è più grande di me anche di età, però con Mario ci conoscevamo da ragazzo, cioè io ero un ragazzino quando lui era ormai un giovanotto grande, tra l'altro abitavamo vicini di casa anche nella stessa di Vecchia, per cui ci conoscevamo molto ma molto bene, non solo con lui ma con tutta la famiglia, tutti i fratelli, lui conosceva benissimo mio padre, mia madre, eccetera eccetera, abitavamo da dove abitavo io a dove abitava lui non c'erano più di 200 metri di distanza se che ti puoi immaginare, anche lui un grande amico è stato una persona come si deve, sempre tranquilla, educata, non c'era niente da dire, insomma, ecco, a modo veramente. Parli di Mario Mao, tu stai parlando? Sì, sto parlando di Mario Mao, sì. E cosa, Gabino Passero, prima di voi c'era? No, Gabino Passero è entrato un paio di mesi dopo di me, era entrato, ce l'avamo conosciuti, e c'era una volta un concerto lì in Piazza Italia, e il caso ha voluto che eravamo vicini l'uno all'altro, no? Lui era lui, la moglie, io ero io e mia moglie lo stesso, io l'ho sentito parlare e come ha parlato ho conosciuto che era lui, allora mi sono rivolto a lui e ha detto ma tu Gabino sei, ha fatto sì, e tu che sei, io sono Giulio, e ti ha come fatto a riconoscermi dalla voce, da come parli, dal tuo tipo di voce, l'ho conosciuto, però è entrato un paio di mesi dopo di me, 2 o 3 mesi dopo di me, per questo era entrato. E a quell'altro che poi non si è più sentito, che faceva gli amplificatori, che trasmetteva la notte, forse era amico di Pompugno, dal centro storico, come si chiama? Aiutami, che c'aveva anche lì un laboratorio o qualcosa, o forse era al Monte, ma non me ne ha mai. Stai parlando forse di Giancarlo Tucatucca? No, questo Tucatucca ero bambino io e me lo ricordo questo Tucatucca, no, sto parlando di 10-15 anni fa, non di più. Come si chiamava la Span Napoli? Non mi viene il nome. Beh, quello che costruiva gli amplificatori è Gianni da Itti, però io mi ricordo di Gianni da Itti che costruiva radio tecnico di professione, so che è un bravissimo tecnico e infatti si aveva costruito lui l'amplificatore e anche la radio. No, sto parlando di Sassari, come si chiama? Adesso non mi viene il nome, che entrava molte volte, c'era una voce proprio, un vocione un po' grossa, tipo Walter come voce c'aveva, un vocione pesante, grossa, e faceva era mezzo tecnico, almeno noi lo conoscevamo come tecnico, adesso non mi ricordo se era la zona di Monte Rosello o dice forse più centro storico di Sassari, ed era la conosceva Pompugno, però non mi viene il nome adesso. Ah, tu stai parlando forse di Betta Verde, di Betta Verde stai parlando, quella lì in Viale San Francesco aveva il laboratorio. Di nome come si chiamava? Di nome si chiamava, sai che mi sfugge anche il nome adesso, si picchia, non me lo ricordo, dai, se mi viene in mente già te lo dico. Betta Verde, lui si interessava proprio di radiotrasmissione, sì, era un radiotecnico che faceva anche qualche riparazione TV, eccetera, però principalmente la sua attività principale era quella proprio della radiotrasmissione, lavorava anche sui punti, eccetera, parlo sempre di punti di trasmissione. Ehi, a te c'è, altro tu sei? No, sono io. Ho detto, ti ricordo Giulio, che sono entrato nel 1974, dal Porto Torres, ho conosciuto detto tutti i vecchi cibi sassaresi, tutti. E uscivo con la greffa appunto di Nando Elettroniche, Antonello, tutta quella gente lì, capito, che ancora praticamente fratelli Pandora. Quindi nel 1984, nell'83 poi sono arrivato a Sassari, quindi dall'83 in poi io modulavo la Sassari, ma dal 74 all'83 io modulavo la Popolo Torres. Come si chiama qua quello che sto dicendo io, che era amico di Antonello Pompuni? No, quello è Mario Chine. Non Guido, cazzo, che trasmetteva molte volte di notte dal laboratorio, lui cioè, stava nel laboratorio e trasmetteva, che era grande di età, secondo me, non dico Ponto Giulio, non lo posso dire, però grandicello era, cazzo, non mi viene il nome. Per il re. Dino sta dicendo, Dino Bettore. No, Luca, forse chiediamo a Luca, tu ricordi quello che modulava, adesso non mi ricordo se era di Monte Rosello o di Centro Zurico, che conosceva Pompugno, che era un tecnico, che trasmetteva la notte, che erano di quelli che ai tempi che furono dava matta una nuova di gente con la potenza. Mi ricordo che è entrato quel tipo, sì, zona Cappuccini mi sa, boh. Perché Vittorio stai parlando? Chi? No, Vittorio, un altro, cazzo, non mi viene il nome adesso. Oh, vabbè. Sono entrato a salutare che sto cenando. E ho fame. Perché ero al mare e non si sta, va bene, cioè siamo saliti. Cioè ho fame e sto mangiando. Ciao a tutti, riprendi per il re. Ciao, guardi, lui, io ho finito adesso di mafiare, mi sono entrato a salutare perché ho lasciato tutto accesso. Niente di che. Dino comunque, quello di che stavo dicendo Giulio è Dino Bettorverde. L'altro è Cosio, quello lì del Ponte Rosello. Adriano stai dicendo tu. Adriano, eccolo lì. Ehi, vabbè, ma non è che ci sia tutta questa, capito? I vecchi che li ha già citati Giulio, capito? Io a Walter l'ho conosciuto proprio quando ero a Porto Torres, quindi lui ancora portava i giornalini diaboliche con la BMW, perciò siamo conosciuti a ragazzini, poi erano le fa di mia moglie, insomma, eravamo di casa. Nel 74, poi la concessione mi sembra che ci stava nel 75, ho fatto la concessione, ma sempre Claudio Sparviero, non ho mai cambiato. Nell'83 sono arrivato a Sassari, quindi mi ricordo tutti perfettamente quelli che c'erano, i vecchi, eccetera, eccetera. Tutte le sante mattine io andavo in Piazza Castello a prendere il caffè con la mano di Mario Mao, figurati. Va bene, dai, sono entrato per salutarvi di nuovo, spero stia andando tutto bene qua, perché questo 4.30 è forse un mese e mezzo spento, comunque già ormai lo stesso. Ok, non è il 4.40 che se non accendi questo è un muletto, è come 140. Dai, di nuovo un saluto, ciao Giulio, ciao Roberto, ciao Luca e chiunque fosse in ascolto, ok? Un abbraccio a tutti, alle prossime trasmissioni, vai giù. Ok, ciao Luca, di nuovo. Sì, beh certo, e abbiamo un po' riesumato certi personaggi di allora, tanti, sì, anche tu hai citato Orazero, Norton, Fratello, Elettroniche, tutte queste persone così, Bruno ogni tanto entra, anche lui faceva parte di quella graffetta lì di ragazzi di allora. Quelli addirittura c'erano prima di me anche, però ormai non ci sono più in frequenza robe, per cui infatti io il primissimo personaggio dell'SB che ho conosciuto è Norton, e cioè il fratello di Costanzo Pazzola, il fratello, modulavano tutti e due. Antonello si chiamava Norton di nominativo, e Costanzo ora zero. Poi c'era Bruno, che non mi ricordo come si chiama, Bruno Uragano si chiamava, però Bruno ogni tanto entra, si fa sentire ogni tanto, ma dopo 35-40 anni che non c'era più, si è riapparso di nuovo in frequenza, vabbè. Io non sono mai mancato, eh. Non ero io, questo lo posso garantire, infatti quando non c'era mai nessuno, addirittura parlavamo con lo, con lo VHF Marino, che mi avrebbe dato in prestito Gian Maria, e parlavamo io, quello di